Città Fregico Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fugico 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché naturalmente il web dove potete ascoltarci in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafugico.it. E siamo ancora in campagna elettorale quasi, no, sto scherzando, in campagna abbonamenti, una mano a questa radio per continuare ad esistere libera ed indipendente, direi unica voce in questa città che è sempre più omologata e sempre più ristretta in certi ambiti. Quindi se volete aiutarci economicamente, sto parlando, potete farlo con diverse modalità, non starò a dilungarmi, vi dirò solamente che se andate sul sito della radio, lo ripeto, radiocittafugico.it, troverete tutte le spiegazioni del caso e tutte le modalità di abbonamento. Vi dirò solo che ci sono quattro step, diciamo, di aiuto da 25, 50, 100 o 150 euro. Poi magari se volete dare anche 5.000, visto che è un numero che è di moda in questo momento, potete tranquillamente farlo, a patto che arriviate in radio con 5.000 euro in contanti. Città Fugico Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi propone musica registrata dal vivo di tutte le epoche e di tutte le qualità, anzi no, si spera sempre di buona qualità. Come sempre Città Fugico Live Club inizia con una novità che vi propongo settimanalmente, e in questo caso è una novità veramente molto molto importante, molto molto bella. Oserei dire che se la persona che amate è un amante della buona musica, questo quadruplo cofanetto che si chiama semplicemente Live the Fillmore 1997 di Tom Petty and the Heartbreakers è la perfetta strenna natalizia che farà piacere alla persona che amate. Tom Petty and the Heartbreakers è stata una delle grandi band americane, purtroppo si è sciolta nel 2017 dopo la morte del leader Tom Petty, appunto, che è avvenuta il 2 ottobre di quell'anno. Però ha fatto un sacco di ottimi album, un sacco di album live, e dopo la morte di Tom Petty il suo estate, la sua famiglia, la sua organizzazione ha pubblicato diversi cofanetti, tutti molto molto interessanti. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, è uscito un paio di settimane fa in senso reale, perché è uscito il 25 novembre, e come dicevo è un quadruplo CD che racchiude alcune dei brani, mi sembra il 52 se ricordo bene, che Tom Petty and Heartbreakers hanno suonato nel corso di 20 concerti al Fillmore West di San Francisco. Infatti, fra il gennaio e il febbraio del 1997, Tom Petty and the Heartbreakers diedero 20 concerti non consecutivi, ma 20 concerti nell'ambito praticamente di un mese in questo locale storico di San Francisco, del quale parleremo dopo. Moltissime di queste, di questi brani che sono contenuti in questo cofanetto sono covers, cioè brani di altri che Tom Petty e la sua band amavano fare costantemente. Anzi, in questi 20 concerti tutte le volte iniziavano con una cover diversa, in corso d'opera, diciamo così. Ne hanno fatti veramente tantissimi, ha avuto degli ospiti John Lee Hooker, Roger McGinn dei Byrds, e è veramente un cofanetto imperdibile, assolutamente imperdibile per tutti coloro che amano la buona musica. Lo ripeto, si chiama semplicemente Live at the Fillmore 1997 e adesso ce ne andiamo ad ascoltare. It was a friend of mine. I never knew who it meant. I never knew who it was. I never knew who it kills. It isn't a no home when a man done gone. Non avevo che l'imbarazzo della scelta per le covers, quindi questa era Tom Petty e i suoi Heartbreakers live al Fillmore West di San Francisco, anzi adesso si chiama solamente Fillmore, e fra i tanti brani che ci sono e che sono compresi in questi quattro CD, non ne sbaglia uno in pratica. Come vi ho detto, ci sono anche diversi ospiti, abbiamo Johnny Hooker e Roger McGuinn in particolare. Consigliatissimo ancora una volta, lo ripeto, si chiama Live the Fillmore 1997. E ne abbiamo già parlato qualche tempo fa del Fillmore, ma oggi ne riparliamo perché ne vale la pena. Ne riparliamo perché è un locale storico che è attivo dagli anni 60, anche se poi ha avuto diverse vicissitudini, per cui è stato chiuso, riaperto, ha cambiato diverse location, tutte però vicino a Fillmore Street a San Francisco, appunto. Il primo era all'incrocio fra Fillmore Street e Jury Street, adesso non è molto lontano. Ancora una volta l'ho già detto, lo so, mi ripeto, ma siccome sono anziano mi ripeto spesso, all'ingresso c'è una bellissima cesta con un sacco di mele e chi vuole può prendere una mela e mangiarsela in attesa del concerto. Però, come usa ultimamente, mettiamo un paletto per parlare del film di oggi. Oggi faremo quella che si può chiamare tranquillamente archeologia musicale, perché tutti i brani che ci ascolteremo in questa prima parte, tutti registrati al Fillmore West di San Francisco, non superano il 1970, sono tutti antecedenti. Cominciamo proprio da 1966, abbiamo parlato prima di Jolly Hooker, ospite di Tom Petty, e adesso invece andiamo a un altro grande della musica blues mondiale, Muddy Waters. Il 4, 5, 6 novembre del 1966 era al Fillmore, fu registrato un album che è uscito con la serie Authorized Bootleg, e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Muddy Waters, si chiama She Moves Me. She moved a crazy man. Said, now I'm not so dumb. I take her to a funeral, boys. The dead jumped up and run. She spoke to a deaf and dumb boy. Said, now I can speak. She shook a finger in a blind man's face. Once but blind, but now I see. She moved me, man. Woman, I don't see how it's done. She got a pocket full of money, this girl, yo. My baby, don't try to help me now. Lord help me. help me now. Da un gigante del blues come Muddy Waters a un altrettanto gigante del blues come Albert King. Lui suonò due sere al Fillmore di San Francisco nel giugno del 1968, esattamente il 27 e il 28. Due concerti furono registrati e parzialmente pubblicati in due album diversi. Il primo si chiama, quello che ci siamo ascoltati, Thursday Night in San Francisco, cioè martedì notte in San Francisco, e l'altro Wednesday Night, perché era la sera dopo, sempre in San Francisco, che è il mercoledì. Il tutto appunto nel 1968. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama You Upset Me Baby. This song comes from the writings of H.P. Lovecraft. It's called The White Ship. E questa era una fantastica band della quale nessuno si ricorda più, credo. Furono attivi dal 1967 al 1969 e venivano da Chicago, però l'11 maggio del 1968 erano in concerto al Fillmore West di San Francisco e registrarono questo album che si chiama semplicemente Recorded Live May 11, 1978, quindi 11 maggio 1968 la data di registrazione, e però è stato pubblicato nel 1991. Band molto psichedelica, quindi ci stava bene in quel di San Francisco. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama The White Sheep, loro invece si chiamano H.P. Lovecraft, esattamente come il famosissimo autore di novelle cosiddette horror, e che davano lo spunto per i testi di questa band che purtroppo non è durata molto ed è tuttora appunto sconosciuta ai più. Chi non è sconosciuto ai più invece è Mr. Carlos Santana. Narra la leggenda che un imberbe Santana andasse tutte le sere fuori le porte del Fillmore, primo per ascoltare la musica e secondo per pregare Bill Graham, che era il manager del Fillmore West, del Fillmore East e di tante bands più o meno locali, pregare appunto Bill Graham di farlo suonare qualche sera al Fillmore. Alla fine fu accontentato e nel dicembre del 1968 fu artefice, fu protagonista insieme alla sua band di quattro serate che parzialmente furono registrate, ricordo siamo nel dicembre del 68, ma sono state pubblicate solamente un trentello dopo, esattamente nel 1997. Non starò a dilungarmi su Carlos Santana, vi faccio solo ascoltare questa versione primordiale, oserei dire, di uno dei suoi grandi classici della prima ora, che si chiama Jingo. Born right out of the belly of San Francisco, Santana. We'll be right back. Siamo nel 1968, una delle prime registrazioni live ufficiali, anzi forse la prima live ufficiale della Santana Band, in quel del Fillmore West di San Francisco. E per i più giovani dirò che questo genere musicale, chiamiamolo così, con tutte queste percussioni, fu assolutamente un'innovazione di Santana e della sua band nel campo musicale rock, perché non si era mai sentito prima, non era mai diventato famoso prima questo connubio fra rock e percussioni. Jingo ne è l'esempio più eclatante, uno degli esempi più eclatanti, ed è anche uno dei brani più famosi di tutta questa band, che è tuttora in giro, anche se c'è poi praticamente il solo Santana ad essere l'unico rimasto di questa band del 1968. Fra l'altro Carlos Santana non è stato tanto bene negli ultimi tempi, gli facciamo naturalmente i migliori auguri e che possa riprendersi presto e tornare a suonare. Naturalmente non potevano mancare a San Francisco i Grateful Dead, band, come dicono i critici saccenti, assolutamente seminale, una band che ha creato tutto un movimento che è quello delle jam bands, che vi faccio ascoltare tutte le volte che posso, e che è stata veramente una grandissima band fino al 1995, quando Jerry Garcia, il leader, morì e quindi provocò lo scioglimento della band, che poi si è riprodotta in diversi cloni che sono tuttora in giro e che potete ascoltare e vedere tranquillamente in concerto. Dopo la morte di Jerry Garcia fu inaugurata una serie che si chiama Dick Speaks. Il tale Dick Latvala sceglieva i concerti, li pubblicava con frequenza abbastanza tosta, perché è assolutamente impossibile economicamente, stare al passo con tutte le uscite discografiche, sia della Dick Speaks, che è arrivata al numero 36, poi anche Dick Latvala purtroppo ci ha lasciato, e al suo posto è arrivato David Lemieux, un altro di quelli che si chiamano Grateful Dead Archivist, che ha inaugurato la sua propria serie di Peaks, che è arrivata attualmente al numero 44, e forse mi sembra di aver letto ieri che è già al numero 45. Ultima cosa dei Dead, vi ho già detto diverse volte che in novembre c'è una cosa benemerita che si chiama 30 Days of Dead, dove tutti i giorni loro immettono su, chi per loro naturalmente, il loro management immette in rete un brano che si può scaricare gratuitamente. Alla fine del mese avete 30 brani, di solito sono molto ma molto ma molto lunghi. Quest'anno non ho ancora fatto e trasformato i file in CD, per cui non vi sto a dire quanti siano, ma sono già sicuro che almeno 6 saranno. Quindi è tutto gratuito, se andate sul sito gratefuldead.net potete trovare, ripeto, si chiama 30 Days of Dead, 30 giorni di Dead. Qui invece siamo al Fillmore Auditorium nel 1968, ed è esattamente, anzi nel 69 scusate, ed è esattamente l'8 novembre. Il brano che ho scelto per voi si chiama Casey Jones, loro sono Grateful Dead. Your speed, trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station at 8:45, it's River Junction. Driving that train, I'm cocaine. Well, that's the places to run to. Early tree at the dark, trying she, and one little promise she was gonna keep. Oh yeah, all right. Take it easy, baby, make it last all night. She was an American girl. Well, it was kind of cold. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che inizia sempre con la novità che vi propongo quest'oggi. Qui abbiamo in azione Tom Petty and the Heartbreakers, uscito alla fine del mese scorso, questa autentica strenna natalizia che risponde al nome di Live, The Fillmore 1997, una serie di registrazioni effettuate durante 20 concerti nel locale di San Francisco fra il gennaio e il febbraio del 1997. Come vi ho detto in precedenza, ci sono un sacco di covers, tipo queste che ci stiamo ascoltando in sottofondo, ma anche brani suoi, brani più famosi, tipo quell'American Girl che ci siamo ascoltati in apertura di seconda parte, e che come tutti gli altri brani autoctoni, diciamo, di Tom Petty and Heartbreakers, subiscono degli arrangiamenti un po' semiacustici, diciamo così, ma sono sempre grandissimi. American Girl, il brano che ha aperto questa seconda parte. Seconda parte che vede sempre in arrivo anche Record Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna, 7 dicembre, nel corso degli anni. Ancora una volta vi dirò, a costo di essere veramente tedioso, che ci sono tantissime cose registrate in questa giornata, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade, e oggi abbiamo 6 decadi, speriamo di farcele stare tutte, per cui pochissime chiacchiere. Andiamo subito con una registrazione effettuata nel 1969 da parte di una band, mega band, che si chiamava Delaney and Bonnie and Friends with Eric Clapton. Delaney and Bonnie erano una coppia di fatto e anche artistica che è stata attiva fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e furono una specie di antesignani o forse anche contemporanei di bands tipo Mad Dogs and Englishmen. A un certo momento della loro carriera, la loro band appunto si chiamava Delaney and Bonnie and Friends, arrivò anche Eric Clapton, che cercava di uscire dalla fama stratosferica che aveva avuto con i Cream, con i Blind Faith, sperava di uscire anche dal tunnel della droga, ma ci volle poco perché il suo nome comparisse sulla locandina insieme a quello di Delaney and Bonnie and Friends, forse anche un po' più grande. E fu registrato un album che è stato pubblicato nel marzo del 1970 come singolo album, ma poi dopo tanti anni, nell'agosto del 2010, fu pubblicato un quadruplo CD che racchiudeva tutti e quattro i concerti che la band aveva fatto in Inghilterra, perché loro dopo svariati tour americani erano passati la Gran Bretagna, e il 7 dicembre, che era una domenica per la cronaca, perché c'è scritto sopra la copertina, suonavano alla Farfet Halls, che è un locale che sta a Croydon, una delle tante cittadine satelliti della Greater London. Basta chiacchiere, il brano che ci andiamo ad ascoltare è un medley fra un brano che si chiama Poor Laja e Tribute to Johnson. Naturalmente Johnson, si tratta di Robert. We had to wait so long to keep trying. and in loving in slow motion. Delaney and Bonnie and Friends with Eric Clapton, un cofanetto specialissimo per la musica e per anche il valore storico. Questa registrazione è stata effettuata domenica 7 dicembre 1969, fra l'altro è il secondo show della giornata, una volta se ne facevano due, pomeriggio e sera, e il brano che ci siamo ascoltati, un medley fra Pure Elijah e Tribute to Johnson. Per il 1974 andiamo nelle alte sfere, andiamo nella nobiltà, andiamo con un Sir Rod Stewart. Chi segue le mie trasmissioni sa del mio amore per questo cantante, una delle migliori voci in assoluto della musica rock. Qui siamo nel 1974, esattamente a San Bernardino in California, ed è un album della serie King Biscuit Flower Hour. King Biscuit Flower Hour era una serie appunto radiofonica che dal febbraio 1973 al dicembre 2005 fece ascoltare centinaia e centinaia e centinaia di concerti, fra cui questo di Sir Rod Stewart, che ci fa ascoltare I Know I'm Losing You, un altro classico di quella che è la musica rhythm and blues. I'm losing you. So over your face, did you take him a place. No, no, no. Sono usciti parecchi volumi della King Biscuit Flower Hour in CD dedicati a singoli artisti o singoli gruppi, ma sono usciti anche 4 best of, da cui abbiamo tratto, dal numero 3 di questi 4 abbiamo tratto Rod Stewart in questa I Know I'm Losing You, con tanto di assolo di batteria che onestamente a casa mi sembrava un po' più corto, ma che comunque è sempre un bel piacere per un batterista mancato come me ascoltare queste cose. Era esattamente il 7 dicembre del 1974, una delle primissime band a suonare in Russia. Siamo nel 1987, quindi il muro deve ancora crollare, e però vengono invitati gli Uriah Heep per 10 serate all'Olimpijskij Stadium di Mosca, per un totale di 180.000 persone. Uriah Heep è una band che è attiva dal 1969, anche se l'unico membro rimasto originale si chiama Mike Box ed è il chitarrista. Comunque sono ancora in giro e fanno ancora della buona musica. Un brano su tutti che conoscerete sicuramente e che è quello che ci andiamo ad ascoltare, registrato appunto il 7 dicembre del 1987. Il brano si chiama Gypsy. Yeah.

Una delle migliori band italiane di sempre, si chiamavano CSI ed erano la trasformazione di quelli che prima erano i CCCP e che poi a loro volta si sarebbero trasformati in, per grazia ricevuta, PGR. Ancora adesso alcuni di loro sono in giro con il nome di Post CSI, però senza Lindo Ferretti la cosa cambia radicalmente, anche se Lindo Ferretti ultimamente diciamo che non è nelle mie corde, ma comunque questo è un altro discorso. Qui ce li siamo ascoltati in Linea Gotica, una registrazione effettuata al Cencios di Prato il 7 dicembre del 1996. L'album, ho dimenticato, si chiama Noi non ci saremo, volume 2, che racchiude le registrazioni inedite, così come volume 1, che molte sono registrate dal vivo. Altra grande italiana, una delle blueswoman, più italiane, si chiama Francesca De Fazzi, viene da Roma, lei si autodefinisce Roman Blues Woman appunto, è stata però anche in giro per il mondo per imparare a suonare la musica del diavolo, come direbbe il mio amico Gherardi, e questo album, che si chiama semplicemente Blues Doos, è stato registrato al Big Mama di Roma principalmente in febbraio, ma previa mia richiesta Francesca De Fazzi stessa mi disse che una buona parte, almeno 3 o 4 brani, sono stati registrati invece il 7 dicembre del 2001, scusate. Ce ne andiamo ad ascoltare Francesca De Fazzi in questo ottimo album, ripeto, si chiama Blues Doos Live, e questo brano è dedicato a San Francisco, infatti si chiama San Francisco 68 ed è stato registrato il 7 dicembre del 2001. Ottima chitarrista Francesca De Fassi insieme alla sua band, l'ho dimostrato in questo San Francisco 68 con un accenno anche hendrixiano che prelude poi a Manic Depression che arriva adesso in sottofondo ed è il brano seguente di questo ottimo album che si chiama Blues Dues Live, registrato parzialmente il 7 dicembre del 2001. Molto velocemente, perché a concludere Città Fujiko Live Club di oggi ci sarà una registrazione del 2018, vi ricordo solamente naturalmente la campagna abbonamenti che potete tranquillamente esplorare in lungo e in largo nel sito Città Fujiko Radio Città Fujiko Live Club radiocittafujiko.it, dove ci sono tutte le modalità d'uso per aiutare la radio a rimanere libera e indipendente. Io invece vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, appunto, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. E l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Vi lascio in compagnia, rimaniamo in ambito italiano, e vi lascio in compagnia di Stefano Lento, detto anche Stevie Van Zandt, detto anche Miami, detto anche Little Steven. Un triplo album che si chiama Summer of Sorcery Live, registrato al Beacon Theater di New York City in altra data, ma nel terzo dischetto, quello che comprende i duetti, è molto interessante questo triplo CD perché nei primi due c'è un intero concerto, nel secondo invece ci sono dei duetti che Little Steven ha fatto, in questo caso insieme a Nick Arenaites dell'Electric Flag. Il brano si chiama Growing is Easy. Ciao a tutti da Nevio. Thank you. see now, baby. To be.